Sto lottando con lo stress, yes. Anche quest'anno chiamami Ness. Ritorno in studio incazzato nero, oh. Nuovo progetto, Nessuno punto zero. Zero, zero, zero. La la la, c'è qualcuno che mi dice chi è quello là. La la la, c'è qualcuno che mi dice se ce la fa. La la la la la la la la la la la. Ma scherzi, nelle radio passa questo qua. Bla bla bla. Che coglioni con sto caldo, mi tocca tornare in studio per colpa dei soliti buffoni che si credono culio. Quello che passa in radio da tempo lo ripuglio, aspettando il sole sto vivendo al buio. Nessuno mi ascolta e nessuno mi segue, ed anche questa volta resto nel posto che mi compete. Scrivo per le disagezze come Herman Hesse, m'hanno fatto crescere come uomo e come Ness. Nella testa ho temporali, troppi lambi di genio, per questo non capite ciò che dico da un decennio. Mi trovi tra i perdenti al passo coi tempi, ma di questi tempi si rimane a spasso e senza denti. Senza tanti talenti ma troppi complimenti, non ci sono rimpianti e zero sentimenti. Qui per un vecchio guerriero, riflesso in una foto in bianco e nero. Questo è Nessuno punto zero. Rifletto sul passato, ricordi in bianco e nero. Nello specchio oggi rifletto un uomo vero. Voglio un futuro che racconti ciò che ero. Faccio l'upgrade ma resto Nessuno punto zero. Resto connesso con la realtà, vivo me stesso dicendo la verità. Voglio un futuro che vada al di là. Questo è Nessuno punto zero. E poi lascio i bla bla bla. Ogni rima che faccio è una finestra sul mio mondo, con vista panoramica ed il sole sullo sfondo. Mi volevate innovativo, vedermi dal vivo. Io sono come il buon vino, pugliese primitivo. Non soffro di disturbi mentali, ma me li godo tutti, non ho rime sperimentali. E non mi evolvo, ma regredisco ogni volta che prendo un microfono in mano e faccio un nuovo disco. Ricordi sono vintage fuori e retro. A me frega un cazzo di seguire il tuo esempio, distante dalla massa, da chi segue la moda. A me interessa solo di fare la mia roba, senza vendere il culo per essere al tuo posto. Sei poco più dell'hashtag venduta ad ogni costo. La paura è del successo, non certo delle critiche. Ho già visto cos'è successo a chi scalava le classifiche. Rifletto sul passato, ricordi in bianco e nero. Nello specchio oggi rifletto un uomo vero. Voglio un futuro che racconti ciò che ero. Faccio l'upgrade ma resto Nessuno punto zero. Resto connesso con la realtà, vivo me stesso dicendo la verità. Voglio un futuro che vada al di là. Questo è Nessuno punto zero. E poi lascio i bla bla bla bla bla bla.